sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 28 gennaio, il sole in regione sorto alle 7.35 tramonterà alle 17.06, la luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli: le proprietà salutistiche delle verdure invernali, la Madonna Candelora e la Dea Bianca nel corsivo di Licio Damiani, per i legumi da granella il tanto bistrattato lupino che ora vede un rilancio, la gran varietà di contenitori per la fermentazione del pigiato, nella rubrica dei grandi alberi la magnolia monumentale del Parco Rizzani, l'onnipotente e onnipresente cipolla declinata nella sua celeberrima zuppa. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Riprendono, ma non si erano mai interrotti, i temi dell'orticoltura con Costantino Cattivello, vecchia conoscenza di Vita nei Campi, che oggi ci parla degli ortaggi invernali, i principali benefici per la salute, quindi un intervento che non è solo agronomico. Nella stagione invernale molte delle orticole coltivate hanno delle proprietà che le rendono un cibo molto salutare. Tutta la famiglia delle brassicacee, i cavoli per intenderci, sono un concentrato di vitamina C e glucosinolati. Pensate che 100 grammi di cavolfiori contengono un po' più di vitamina C delle arance. Ma qual è il problema? Questa vitamina resiste poco alle alte temperature e già a 36 gradi centigradi inizia a decomporsi. Pertanto, per limitare le perdite e preservare tutti gli aspetti nutrizionali dei cavoli è consigliabile una cottura a vapore. C'è però un'altra brassicacea che si consuma fresca e che contiene il doppio della vitamina C degli agrumi ed è la comune rucola. Oltre alla vitamina C ha parlato dei glucosinolati, ci spiega esattamente che cosa sono e perché sono altrettanto importanti per la salute. Va subito detto che si tratta di un insieme di molecole che vanno sotto il nome di glucosinolati. Si tratta di sostanze che la pianta produce per difendersi dai parassiti di vario genere con un meccanismo davvero interessante. Pensate che i precursori di queste sostanze si trovano all'interno delle cellule in compartimenti separati. Nel momento in cui la cellula viene danneggiata, pensiamo alla larva dell'insetto che si ciba della foglia, questi precursori vengono in contatto e si originano delle molecole che funzionano come una sorta di insetticida naturale. Quindi può essere utile anche per noi, se ho ben capito, queste sostanze servono alla pianta per difendersi, ma allo stesso tempo possono essere utili anche alla nostra salute. Capiamo qualcosa di più. Certo, diverse ricerche hanno appurato che tra le molecole che si formano, alcuni isotiocianati sono molto attivi nei confronti delle cellule tumorali della mammella, del colon e della prostata. Per capirci, sono le sostanze che danno il tipico odore pungente, il sapore piccante e la capacità lacrimante. Certo, in grandi quantità possono ridurre l'assorbimento dello iodio e favoriscono la formazione del gozzo, ma direi che i vantaggi superano e di molto gli svantaggi. Tra le specie cosiddette invernali, come ci ha accennato, ci sono anche i radichi. Qualcosa di in più. Di radichi ne abbiamo una gran varietà e ne parleremo in successivi interventi, ma hanno in comune la caratteristica di essere alimenti a basso contenuto calorico, depurativi e ricchi di fibre e pertanto facilitano il transito intestinale. Per la lettura dei corsivi di Licio Damiani raccolti nel volume Vita nei Campi, Storie, Memorie e Leggende della Campagna, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi proponiamo Madonna Candelora e la Dea Bianca in onda il 2 febbraio del 1992. Con la celebrazione della Madonna Candelora l'inverno è arrivato al giro di boa. La luce alla base dei riti religiosi, la luce simboleggiata dalle candele benedette nelle chiese come simbolo di consacrazione attenzione alla purezza, che è anche la purezza della natura alle porte, ormai, della stagione delle gemme. Una luce nuova. Fu il cristianesimo a trasformare le feste pagane della luna nascente nella solennità della purificazione di Maria, la popolare Candelora. Nell'antica Roma un sacrificio d'espiazione alla dea Giunone, salvatrice e madre regina, apriva a febbraio. I sacerdoti attraversavano la città con fiaccole accese e all'inizio di febbraio le popolazioni celtiche celebravano la festa della luce. Nel calendario arboreo dei Celti il periodo compreso fra il 21 gennaio e il 15 febbraio era consacrato al sorbo dalle piccole bacche rosso corallo che brillano d'inverno sui rami ad annunciare il ritorno del sole dopo le tenebre del solstizio d'inverno. E proprio il 2 febbraio era dedicato alla dea Brigit, cristianizzato in Santa Brigida, la dea bianca, la triplice musa del risveglio della vita. Le bacche dolci del sorbo nutrivano gli dei, diffondevano un messaggio di resurrezione, proteggevano contro fulmini e sortilegi. Le candele benedette alla Candelora ritorneranno il 3 febbraio, giorno dedicato a San Biagio per la benedizione delle gole. Si racconta che Biagio, mentre in una delle ultime persecuzioni veniva condotto a morte nella città di Sebaste, salvò un bambino nella cui gola si era conficcata una lisca di pesce. Ma San Biagio è anche il patrono dei lavoratori dei campi. Durante la messa i contadini usavano portare all'altare frumento, cereali e bianche candele di purissima cera. Il bianco leggero è dunque il colore di febbraio, come il fiore di questo mese, il bucaneve, che sboccia per incanto fra l'erba ancora irrigidita dal gelo, con il suo profumo indefinito fatto d'aria e di brina, e il dolce presagio di primavera avvolge la campagna in un tempo come d'attesa. È stato ingiustamente bistrattato nella storia, anche se ha sfamato generazioni di gente dei campi, ora l'ha riscoperta. Stiamo parlando del lupino, lo riscatta per noi Cristina Micheloni nella rubrica del bio. Oggi è la volta del lupino, legume nelle forme selvatiche, presente con particolare ricchezza di bio nell'America del Nord, con circa 200 specie, e in modo un po' più contenuto nel bacino mediterraneo, 12 specie. Nella forma coltivata ci sono testimonianze che risalgono a 4.000 anni fa, in entrambe le aree, puoi trovarli sia sulle tavole dei Maya che dei Greci e a seguire dei Romani. In realtà il termine lupino include quattro forme coltivate che si differenziano per il colore dei fiori, ma non in maniera poi così precisa. Si parla comunque di lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo e tarvi. I primi tre erano coltivati nelle aree mediterranee ed attualmente nel centro e nord Europa, nonché in Australia, che è il primo produttore mondiale, mentre il quarto si incontra solo in America Latina. Non ha mai goduto di grande rispetto, nonostante abbia sfamato generazioni di nostri progenitori, tant'è che il miglioramento genetico ha iniziato ad occuparsene molto tardi. In regione ce n'è memoria di utilizzo, pensate solo alla cossuta plena di Louvins che transitava sul Queen di Browlings, e di qualche limitata area di coltivazione. Ecco appunto, il limite della coltivazione è sinora consistito nella necessità dei terreni acidi e alla grande sensibilità al calcare, cosa che da noi riduce di molto le possibili aree in cui seminarlo. Però a livello di orto la cosa si può fare. Si semina a fine inverno, considerando che la resistenza a temperature sotto lo zero è limitata. A file a una distanza tale da poterle sarchiare. Il seme è bello grosso, quindi si può mettere a dimora a 5-6 cm di profondità. Sviluppando una radice assai profonda, è in grado di resistere alla siccità. Non necessita di concimazioni e le avversità possono essere costituite dagli afidi, soprattutto in primavere fredde. Il lupino vi regalerà una bellissima fioritura e verso inizio agosto i legumi pronti per essere raccolti. La produttività può essere molto alta e superare le 3 tonnellate ad ettaro. Altra criticità del materiale genetico è legata all'uso. Le varietà tradizionali di lupino contengono diverse molecole che lo rendono amaro. Tradizionalmente il problema si è risolto con lunghi lavaggi in acqua, un po' come per le olive, successiva cottura e conservazione in salamoia. Però dagli anni 20 del secolo scorso in Germania si è attuato un grande lavoro di ricerca per individuare individui dolci, ovvero con basso contenuto degli alcaloidi che conferiscono l'amaro. Ciò ha progressivamente messo a disposizione degli agricoltori delle varietà che non necessitano deamarizzazione. Oggi il miglioramento genetico con metodi classici ha ripreso slancio anche in Italia, ampliando le caratteristiche anche a quelle agronomiche. Il risultato è che sono disponibili non solo lupini dolci, ma anche coltivabili su terreni non per forza acidi e con maggiore resistenza al freddo. Se a tutto ciò aggiungete che il lupino è uno dei legumi con una maggiore percentuale di proteine, dal 30 al 45%, roba da fare in vita alla soia, con pressoché solo carboidrati non amidacei, quelli che non fanno salire il picco glicemico, niente glutine e tanta buona fibra, si capisce perché l'industria alimentare abbia riacceso i riflettori su questa leguminosa, utilizzandola anche come farina o per la produzione di yogurt vegetali. Nell'Europa centrale il ritorno del lupino si vede già nelle campagne. La cosa potrebbe essere di interesse anche per noi, andando a complementare la rotazione colturale con una leguminosa generosa anche verso le colture che seguono e che non necessita irrigazione. Cercate le nuove varietà di lupino dolce, ne cito solo quella dal nome più simpatico e di genetica tutta italiana. Si chiama Arsenio. Capito il riferimento al ladro gentiluomo? Ce n'è un numero infinito per forma, materiali e specializzazioni. Sono i contenitori per la fermentazione del pigiato, che oggi ci descrive il professor Roberto Zironi nella rubrica del vino. Le uve più raspate e pigiate vengono trasferite nei contenitori di macerazione e fermentazione. Questi possono avere le più svariate capienze e possono essere costituiti di materiali diversi. Dalla notte dei tempi e sino a 2000 anni fa, i contenitori per la macerazione e fermentazione erano di ceramica. Datano 8000 anni i più antichi quiri georgiani, contenitori in ceramica che diventano pitos in Grecia ed olio nell'antica Roma. Negli ultimi 2000 anni il materiale prevalentemente utilizzato è stato il legno, che a partire dal secolo scorso è stato progressivamente affiancato prima dal cemento e infine dagli acciai inossidabili. Per un breve periodo, nella seconda metà del Novecento, viene utilizzato anche la vetroresina. Attualmente nelle cantine coesistono i più antichi contenitori in cemento e i più moderni contenitori in acciaio inossidabile. All'interno le vasche in cemento sono rivestite con resine possidiche, che garantiscono impermeabilità, inerzia chimica, possibilità di lavaggio e sanificazione ed assenza di cessione di prodotti organici al vino. Esse danno scarso ancoraggio alle incrostazioni tartariche, ma hanno scarsa resistenza meccanica e per effetto di traumi possono distaccare sottoprotettivo e contaminare il contenuto. L'acciaio inossidabile è oggi il materiale più utilizzato per le vasche di vinificazione in quanto presenta, come per quelle in cemento, il vantaggio dell'inerzia chimica e la possibilità di essere igienizzato, ma l'assenza di rivestimenti protettivi interni ed esterni permette una perfetta resistenza meccanica anche alle abrasioni più violente. Altri vantaggi sono legati alla loro buona ermeticità, che permette la conservazione del vino al riparo dall'ossigeno e dalla possibilità di aggiungere numerose attrezzature agevolatrici delle operazioni tecnologiche. Sono contenitori che presentano una conducibilità termica nettamente superiore a quella del cemento, evitando i riscaldamenti eccessivi del macerato. Il controllo termico è semplificato, potendo far circolare dei fluidi in un intercappiedine posto nel contenitore stesso. Per la vinificazione con macerazione, anche la forma della vasca è importante. Deve esistere una superficie di scambio sufficiente tra il cappello di vinaccia che emerge per effetto della fermentazione del succo. Spesso le vasche in acciaio inossidabile sono troppo alte o troppo larghe in rapporto al loro diametro. In questo caso i rimontaggi mancano di efficacia, la lisciviazione delle vinacce è insufficiente e il contatto con l'aria può essere limitato o eccessivo. Si può considerare dato acquisito che per ottimizzare i fenomeni macerativi l'altezza della vasca non deve essere di troppo superiore al suo diametro. La magnifica e gigantesca Magnolia del Parco dei Rizzani di Pagnacco è oggi protagonista della rubrica dei grandi alberi che ci cura l'ispettore della forestale, Dario Di Gallo. Il complesso di Villa Rizzani, edificato alla fine dell'Ottocento, sorge su un'altura alle porte del comune di Pagnacco. La villa accoglieva nei mesi estivi la famiglia Rizzani che, come molte famiglie borghesi del tempo, aveva costruito la propria dimora di villeggiatura sulla cerchia delle colline moreniche. Il parco, ora passato nelle proprietà della regione, che ne cura la manutenzione attraverso il servizio delle foreste e del corpo forestale, ha mantenuto il suo impianto all'inglese, una forma a conchiglia che si estende sul retro della villa. Sono molte le specie arboree che arricchiscono quest'area, nota per le fioriture di ciclamini che a settembre si estendono fittamente nel parco, nel cuore del quale si apre un'ampia zona prativa circondata da tutti i lati da una cortina di alti ed imponenti alberi sempreverdi, cedri dell'Himalaya, del Libano, dell'Atlante, lecci, abeti. In questo contesto, in posizione centrale al parco, intorno al mese di marzo, possiamo ammirare la straordinaria fioritura della magnolia di Soulanges, con la cupola interamente rivestita da grandi e luminosi fiori dal bel colore bianco-roseo, che anticipano di molto l'apertura delle grandi foglie ovali. Le magnolie sono dei piccoli alberi originari della Cina, dove accompagnavano di frequente, per la loro simbolica purezza e bellezza, i dintorni dei templi buddisti. Questo ibrido, realizzato dal botanico francese Étienne Soulanges nel 1820, incrociando le caratteristiche peculiari delle varietà Lilia Flora e Denudata, è particolarmente apprezzato per la bellezza e ampiezza della chioma. Il nostro centenario esemplare, col suo portamento policormico, cioè a più fusti, di rara grandezza, ha una circonferenza alla base di oltre 3 metri ed un'altezza superiore ai 10. Il parco è sempre aperto e ne merita la visita. Una delle regine in cucina è certo la cipolla, con tanto di storie illustre e blasonata che oggi Roberto Zottar ci declina in una saporosa zuppa. Rossa, bianca, aromata, dolce, pungente, quante sfumature può assumere la cipolla? Profumata e saporita, da utilizzare per soffritti, da gustare croccante da cruda o morbida se cotta o gratinata al forno, la cipolla è un ingrediente imprescindibile della cucina. È uno degli ortaggi più antichi che ha sfamato intere famiglie di contadini, anche se spesso oggi è passata in secondo piano, quasi gradualmente abbandonata, forse per l'odore intenso e pungente. Originaria dell'Iran o Afghanistan, godeva di grande reputazione già presso gli Egizi. Dioscoride riteneva che la varietà bianca fosse più idonea come alimento, mentre quella rossa come medicinale. Alla cipolla veniva riconosciuta la virtù di stimolare l'apparato digerente, risolvere problemi di ritenzione e migliorare la circolazione, e il suo succo era utilizzato per lenire la tosse. Alessandro Magno la dispensava alle truppe per accrescere il valore, mentre nel Medioevo le cipolle acquisirono anche fama di cibo afrodisiaco, con le proprietà di crescere e decrescere all'inverso delle fasi lunari. Secondo una credenza popolare, la sua buccia è indicata nel prevedere il tempo: buccia sottile inverno mite, buccia grossa stagione dura e fredda. Oggi vi racconterò la ricetta di una deliziosa zuppa di cipolle, delicata come il velluto, un concentrato di sapori con un profumo inebriante e con la crosticina di formaggio che sfrigola e racconta del piatto. Per realizzarla sbucciate quindi 800 g di cipolle, meglio se usate le rosa friulane di Cavasso della Valcosa. Affettatele e fatele appassire a fiamma bassa con un mezzetto di burro per un quarto d'ora e spolverate con un cucchiaio di farina setacciata. A fiamma alta sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco secco e fate evaporare. Unite un litro di buon brodo, due foglie d'alloro e un rametto di timo e cuocete a fiamma bassa per tre quarti d'ora finché la zuppa non si è ridotta a quasi una crema e, se necessario, aggiungete del brodo bollente. Strofinate delle fette di pane tostate con mezzo spicchio d'aglio, versate la zuppa in quattro terrine da forno, aggiungete due cucchiai di parmigiano per porzione e pepe macinato. Distribuite due fette di pane tostato su ogni zuppa. I francesi le cospargerebbero di formaggio gruyère grattugiato, ma noi mettiamo un buon montasio e facciamo gratinare al forno sotto il grill. Per un pasto più sostanzioso si può aggiungere nel cucinare la zuppa anche qualche patata tagliata a dadini. Scoprirete che le cipolle fanno sì piangere nel tagliarle, ma vi faranno gioire poi all'assaggio. Buon appetito! Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia, Giulia. Mercato debole con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 19,70 e 19,90 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 19,30 e 20,40. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 19,80 e 20,30 e la soia tra 44,10 e 44,60. Rispetto ad un anno fa, il mais è diminuito di 11,50 euro il quintale e la soia di 9 euro. In lieve miglioramento il comparto dei bovini da macello, dove le vacche fine carriera e prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3 e 3,50 euro il chilo IVA esclusa, quelle di seconda fra 2,30 e 3 euro. Prezzi diversificati mercati nel settore dei vitelli da ristallo, con i blueberry damaschi che vengono quotati tra 6,20 e 6,80 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,40 e 5 euro, i frisoni tra 2,20 euro, i bruni alpini tra 1,50 e 1,70. Quotazioni discordanti anche nel comparto dei suini, con i nattonzoli 30 kg quotati franco partenza dall'azienda a 4,21 euro il chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 2,01. Nel settore dei foraggi, ancora prezzi in calo per l'abbondanza di prodotto, e l'erba medica di prima qualità viene quotata tra 13 e 14 euro il quintale IVA esclusa, il fieno mazzengo di pianura si paga tra 8 e 9 euro e la paglia di cereali pressata si quota tra 7 e 9 euro il quintale. Infine, nel comparto degli avicunicoli si segnalano prezzi diversificati. I poli a terra vengono quotati da 1,05 e 1,09 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,20 e 3,30, i tacchini maschi da 1,60 a 1,62, le faraone da 3,50 a 3,58, i conigli oltre 2,5 kg da 2,87 a 2,93, le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Gennaio si è presentato con temperature medie abbastanza altalenanti. La prima decade del mese è stata decisamente più calda del normale, con valori fra i 2 e i 3 gradi in più in pianura e in montagna, mentre sulla costa l'anomalia è stata di circa un grado in più. Nella seconda decade invece si sono registrati valori leggermente inferiori al normale di circa un grado. Per quanto riguarda le minime giornaliere più basse, come accade spesso, capofila è stata la zona di Fusine nel Tarvisiano, con meno 18 gradi e mezzo, registrati il 20 gennaio, mentre in pianura si è scesi circa fino a meno 6 gradi lunedì scorso, sfiorati di 0 gradi anche sulla costa, dove il mare però ha ancora una temperatura di 10 gradi e mezzo e contribuisce a mitigare l'aria nelle ore notturne. L'inizio della scorsa settimana è stato abbastanza freddo, con valori inferiori alla media. Poi le temperature si sono alzate notevolmente e le massime in pianura hanno raggiunto giovedì 14 gradi, valori più elevati della norma di circa 6 gradi. L'anticiclone di origine subtropicale è oramai diventato di casa sull'Europa anche nei mesi invernali e continuerà a interessarci probabilmente per tutta la prossima settimana. Non sono attese quindi precipitazioni. Avremo molte giornate con cielo che sarà generalmente sereno, ma nelle ore più fredde, durante la notte e al mattino, sarà possibile la formazione di foschia o nebbia sulla bassa pianura e sulla costa occidentale, soprattutto nelle zone verso il Veneto. Meno probabili invece le foschie e le nebbie sulle altre zone. Le temperature minime rimarranno abbastanza in linea con la media del periodo in pianura, con valori di alcuni gradi sotto zero. Saranno invece più elevate le temperature massime, con 10-13 gradi sull'alta pianura e la zona collinare, un po' più basse invece sulla costa. Temperature decisamente miti in quota, con inversioni termiche però nei bassi strati. Al momento il tempo rimarrà decisamente stabile, con un possibile cambiamento della circolazione atmosferica appena dopo il 6-7 febbraio, ma come sempre invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. La Madonna e Ciandelore sale nulat el fret le lat, sale seren el fret al ven, ovvero se per la Madonna Candelora il 2 febbraio il tempo è nuvoloso, il freddo se n'è andato, se invece è sereno il freddo viene. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Ritta Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.